Beppi Nostro, santo di tutti, eccoci qui introdotti anche in questa seconda puntata dall'inno ufficiale composto da Monsignor Marco Frisina. Un percorso molto lungo, il nostro, che arriverà fino all'agosto del 2014, quando cadrà esattamente l'anno centenario della morte di Papa Pio X. La sua figura è stata molto importante, molte delle sue azioni e delle sue scelte pastorali da pontefice hanno avuto delle conseguenze significative sulla storia recente della Chiesa. Quali riforme importanti, quali scelte hanno ancora oggi una valenza per la storia della Chiesa? Lo abbiamo chiesto al professor Giampaolo Romanato dell'Università di Padova. Credo siano state le riforme ecclesiastiche. La riforma della Curia Romana, la riforma dell'apparato di governo della Chiesa, che era ancora, quando divenne Papa nel 1903, era ancora quello del potere temporale, cioè antecedente il 1870, e poi il varo del codice di diritto canonico, quindi la scelta codicistica che fece per la Chiesa del suo tempo. Queste mi sembra siano gli elementi di modernità e di interesse della figura di Pio X. Quindi la riforma della Curia Romana, nel senso di, che andò nel senso di sfrondare il superfluo, di eliminare dicasteri, congregazioni e competenze che erano legate ancora al potere temporale del Papa, e riproporla invece come la struttura di governo di un potere ormai esclusivamente spirituale, al vertice del quale c'era la Congregazione del Sant'Uffizio, quella che oggi chiamiamo Congregazione per la Dottrina della Fede, quella di cui fu prefetto per 25 anni Ratzinger prima di diventare Papa. Una successiva riforma sarà varata da Paolo VI nel 1968 e riorienterà la Curia Romana non più attorno al Sant'Uffizio, non più attorno alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma attorno alla Segreteria di Stato. Però fino al Concilio Vaticano II, in pratica, la struttura di governo della Chiesa rimase, seppure con aggiunte dei pontefici successive, rimase quella di Pio X. Questa è la prima, mi sembra, ragione di modernità di questa figura. La seconda ragione è legata al varo del codice di diritto canonico, una costruzione che si deve ad una sua scelta. Prima di Pio X non c'era un codice, c'era tutto l'apparato del diritto canonico che si era venuto costruendo nel corso dei secoli. Pio X decise un'opera di riforma, nel senso di sfrondare il superfluo, di eliminare l'accessorio, di eliminare quello che non era più necessario e di trasferire l'intero corpus del diritto canonico in un unico codice di leggi modellato sui codici civili, in pratica, che si erano venuti affermando negli stati europei da Napoleone in avanti, e quindi in questo senso adeguò la Chiesa del suo tempo al modello statuale che si era venuto costruendo nel corso dell'Ottocento. La scelta del codice di diritto canonico, del Codex Iuris Canonici, che sarà varato dal suo successore nel 1917, cioè da Benedetto XV, ma che in realtà è opera quasi interamente di Pio X, indubbiamente irrigidì la Chiesa dal punto di vista normativo e disciplinare, però è anche vero che le diede una grande sicurezza e una grande certezza, che verranno utili soprattutto negli anni 20 e 30, cioè negli anni dello scontro della Chiesa con le dittature, con i totalitarismi e con i regimi autoritari che si imposero in tutta Europa nel periodo fra le due guerre. Era il professor Giampaolo Romanato dell'Università di Padova, che sentiremo anche la prossima settimana su un altro aspetto, e avete capito, insomma, che sulle riforme c'è molta sintonia e vicinanza anche con le scelte che sta facendo proprio in questi giorni, in queste settimane, Papa Francesco. Ricordiamo alcuni appuntamenti in calendario: questo sabato e questa domenica a Riese ci sarà l'apertura del gruppo scout intitolato a Monsignor Giovanni Bordin, che fu parroco di riese Pio X. Poi il 24 e 25 ottobre fra Treviso, Cadei Carrarese e Venezia, Studium Generale Marcianum, il convegno internazionale di studi proprio sulla riforma del cattolicesimo, le attività e le scelte di Pio X, su cui ci ha brevemente introdotto il professor Giampaolo Romanato. E poi segnaliamo che la diocesi di Treviso, in occasione del centenario, ha organizzato un pellegrinaggio a Roma con udienza del Santo Padre nel settembre 2014, quindi manca un anno circa, ma già segnatevelo in agenda. Dall'8 al 10 settembre 2014 le iscrizioni si apriranno all'ufficio pellegrinaggi di Casa Toniolo dal prossimo 10 di gennaio.